E dopo? E beh, Luca, ci sei. E che dopo? Frittella. Frittella stai mangiando? E Luca? No, ancora non l'abbiamo fatto, Luca. No, le ha comprate lì a... al panificio. Ma mi ha teletraverso, boh. No, io riposo. Chi sa che da brutto lo vuoi fare? Bravo, sta comparando. No, e poi diventi di gruppo uguale. Mi pare sono a 12. Lo so. E a 12, a 15, dipende, a 16. Non me ne posso io, me ne posso tanto di luglio. E a lui, sai, con 12 euro invece tutto il materiale e invece di fratelli, a voglia. Infatti, non escono sì. Poi sai cosa ci metti in mezzo. Vabbè, da, mi sto per assaggiare, comunque sono buone queste. Le ha prese lì il panificio, come si chiama lì, a latte dolce? Ehi, da Cesalaccio le ha prese. Vai che non conviene, ti prendo una bottiglia di anice alle rospiche, mi pare giusta sulle 5 euro, una cosa del genere. La farina e ti rifai giù a sapi. Ah, sai quanto dici? Oh, con 12 euro, fai con 15 euro, un bei. Buonasera Luca e Graziano. Ciao Vittorio. Ciao Grazia. Luca, ma mangiando te le sta? No, ciao, no, senti, non ne ho mangiato, non ho preso un giro. Ciao Vittorio. Allora... il discorso è, però sono tanti discorsi, cioè non sporchi, alla fine sì, le fai tu, va bene, fai quante ne vuoi, però non sporchi, tocca lavare tutto quanto, capito, ti impuzzineggi tutto. Ehi, un tegame e basta, in plastica, un po' grandetto, già ce l'ho io, la cacciarura manna di luce. Ma metti a fuoco lento, poi c'è quel coperchio con tutti i bocchini per non saltare l'olio, gli metti, gli appoggio a quello e fatene subito, poi prendo quella monaca che è grande, ci metto la carta del pane, il coloscopo, le appoggio lì così si vede troppo, se lo assorbe la carta del pane, no? Assai, per pure il buon rimedio, un zucchero, sì, un bombo. L'anno scorso l'ho fatto, assai quanto mi sono uscito, una marea. Lo so, Grazia, hai ragione, però il discorso è che... questi... che non ti fiagheggi con la doccia da bocca, ti si tratta di acquisito di brisso in alto, capito? Ehi, chiedi, sei allora, tu vuoi e non vuoi, qualsiasi cosa che fai, dopo ti fila a fare le segame, no? Secondo cosa fai, perché tutti i voci di paletta arrossiamo, dopo si fa la luce, perché l'ubumbo quando gira la bicicletta c'è, gli rimane l'odore del fumo, e poi mi sono... non me la posso arrossare. Mica è entrato Vittorio, non l'hai sentito. Vittorio, le frittelle ci stai mangiando? No, non mi sto mangiando le frittelle, vi sto ascoltando, sono in ascolto con voi. Luca c'ha le frittelle. E mica ti dice Vittorio, venite in aggazza, voglio un paio di frittelle, no. Ci vuole le piedi. Luca, sentito, dai, ancora te ne sono rimaste. Ah, ne ha preso un giro, meno di mezzo chilo, da mangiare un pezzo per uno, cosa? Io vorrei fare fatti fritti, ma solo che da non vuole, cioè, vuole che li faccia, sì, però vuole che, cioè, faccia tutto io per pulire. falli, cosa gli altri gusti, perché sta burato così, e poi sono buoni anche i fatti fritti, e noi li facciamo anche quelli. Anche la torta di mele, quando prendo un bel di mele, che ce ne sono troppe, allora fa due o tre torte di mela. E lo bei, vai a fare le frutti fritti. È vero. No. Non ci vanno da pure il pulito, forse una cosa posso farla. Ma cosa vuoi fare? Scusa una pulita a voi. Così passa Vittorio e gli dai fitti fritti. Vittorio con due bizzaffacce, il cuso. Capricciose, margherite. E voi Vittorio? Eia. Prima lo devi invitare tu, non lo devi invitare io. Invitalo dubbi, ma vabbè, quando devi invitare tu, lo invito io. Ma se tu mi devi invitare, ma ecco se te non mi dico mai giunto. Grazie a noi, sto dicendo che prima ti devi invitare lui. Ma io non ne ho fatto fritti fritti. Che sogna Zarroni, capo di cazzo a mondo. Scusate il termine. Che sogna Zarroni. Sant'Antonio mio. Gigantesco, più grande di un gatto. Mamma mia. E l'avrai visto. Te lo mando su Messenger, aspetta. Ah. Sarà uno di questi zarroni che viso in Alaska. Ma è gigantesco, mamma mia. Ci vado a cosa leggere un buio. In Alaska li prendono e poi se li mangiano. Solo un attimo, grazie. Eia. Pucci, che schifo. Ma sassali. Cazzo gli azzarroni. Cazzo, ma è un uomo che ce l'ha mai denni. I prasi madri. Mica enormi. Mamma mia. Chi ha cazzato a sono, grazie. Ah. A casa sua sono, grazie. Ciao Giammari. Ebbene, e te Milara? Allora, Topolino. No, chi è, te lo conto. Propartelo in forno, che buono per te è quello. Congiugna schifo, gigante. Aspetta tranquillo, basta gente vicino alle caccioni della mondetta. Cazzo un occhisciaie. Dai. Cercate, sto guardando il documentario. Eia. Non vedo. Ma tu dove abiti? Ma quella che me lo dicono, la tua macchina. Dove la vedi questa macchina? La foto, tu c'è la foto, mi sembra, davvero? Non è mia, è della mia ragazza. E scusa, che macchina fai, da? Io non ne ho macchina, quella lì, la Ford, se è quella che stai dicendo tu, dove sei tu adesso? Io sono proprio vicino a Santa Maria di Pio, sono proprio in piazza dei Tori. E sarà quella. No, però affacciati da Gascarpati, boh, affacciati. E se mi affaccio la tua stessa? A piglia freddo. Ma cos'è grigia? Eia. Qua ne vedo una parcheggiata qui. Con un coso giallo profumato. Sarà quello sicuramente. Che c'è la tua partita, Vito, non posso aprirlo, se ci zucca da fuori. Comunque c'è quella, guarda, inizia DD e finisce BZ. La tua, è proprio vicino alla tua macchina. Ehi, non è la mia, giusto, è della mia ragazza. Ah, della ragazza tua. Perché la guidi tu? Perché vogliamo tutte e due, perché ci abbiamo tutte e due la patente. Lui. Ah, ecco. Un giorno ce la facciamo venire, siamo le frittelle. Oh, così. Se vuoi salire non c'è problema, vuoi salire? Oh, come vuoi, ti fa piacere a te. Vai nel portone, fai salire al terzo piano. Al terzo piano abiti. Ti bevi qualcosa, un buon bicchiere di vino, un bicchiere di birra, un whisky, quello che ti piace. Vabbè, la sto salendo allora. in che fatto sei? Numero... aspetta un attimo, ci vedo dov'è? Qua vedo tutto un portone vetrato, quello lì il tuo. Tutti vetrati. Per numero... numero 11. Numero 11. Va, ti accendo la luce adesso, aspetta. Ehi, mi... sale al terzo piano. Luca, è davvero quel tocco? Ehi, grazie, è incontinente sicuramente. Ah, che schifo, per carità. Cazzo, che c'è un topo gigante. Terzo piano. Ma brutto, e anche gli occhiali ci aveva, l'hai visto? Deve essere l'anziano. Abbiamo Ryan, a lui. Allora. Dove c'è anche la bicicletta? Cuffo! Grazie. Piano. Pieno, che imbuttendi, Dalla a mangiare un piccino, non lo vedi che sei ferito? ma io faccio la maletta, là. Dalle buono due, tre tazzetti di vino. Cosa vino, va. Dalle la birra. Se mi prendo lui ancora. Poi se la birra, se la birra, poi infatti su. Ma quella è una pizza, non è frittella. Beh, la frittella non la vedo, Luca, pizza è. Chi è che sta mangiando la frittella? Luca, ne ha fatto un paio di chili, ha detto. Io me l'ho mangiata a mezzogiorno. Io ho preso tre pezzi da cesaraccio stamattina. Buone veramente, calde calde erano. No, io ancora non ho preso paletta, le devo fare. Buone, me ne è rimasto quasi un giro. Stanotte me le scaldo e me le mangio. Già sono buone. Va bene, noi che io li posso mangiare assai, a chi sono ben dolci. Dunque l'assaggio è buono. Va bene, non so quando gli andiamo a mangiare i frigori, no? Oggi mi è venuta la voglia e me li sono fatto prendere. Io sono già una settimana, non esco. Ma c'era mia nipote. Gli ho detto e me li ha presi, capito? No, io non ne ho preso, la dici di vaffoletta. Buone, erano buone. Ogni tanto bisogna anche mangiare quella roba, non tanto, un po', no. Se sei bisogno da mangiare, vai, saluti, cosa mangi? Non so come cosa mangiare. No, oggi ha fatto un pasta e fagioli, poi c'era rimasto mezzo bolpettone di ieri notte e peperoni in verde ho fatto, quaglie prezzemolo. Poi avvilevo, salsiccia, cacio, non so come dire, ma cosa inventarmi. Ho fatto a mezzogiorno. Mezza penne con i polpi. Sì. E ci ho messo anche i cosi, come si chiamano? Quella secco, un barattolo di quegli asseri, il barattolo di vetro. È buono, Dico, buono veramente. La stadia ha giubato la burenta. La stadia ancora cosa ha giubato. Non so più cosa fa, riso al referano. Mi hai tocca avvintarti in una, Adesso vediamo domani, cosa mangiare domani. Visa cosa facciamo domani. Domani ti basta Gesù Cristo. Dai, ti ripensiamo. Pensiamo cosa fa. Cos'è? Forse sappi cosa cucina, a me. quello è. È quello. A cavemo troppo cose, parisco. Ah va, no, non si vede più che la maglia. Che c'è? Non si vede più maglione come un tempo, capito? Un tempo sì, si mangiava fino, ma va, pare che ci fa, ma da mangiare non hai cane, e non mangi quasi niente. La salute non sappia cosa mangiare a parte inutile, ho preso anche la paini, ho comprato, anche da abbassare, dai. Ha detto, beh, abbiamo la paini, abbiamo quasi otto. Non si sa più cosa diavolo fa. La salute ancora l'ha fatto il tè. Ha detto, ma ragazzi, no, se mi ho fatto il tè. Non si sa più cosa cucina. Infatti, non si sa più cucinare. Domani c'è un onomastico, com'è? Anzi, un compleanno, non lo massimo, un compleanno. Però so se si lo fate a pranzo o si lo fate a coso, a cena, boh. E non so quindi un di lo fate. Più tardi un di lo dite, non di andare domani, boh. Ma penso sia a cena domani, boh. Ma forse lo fate che non mi sento bene. Ciò che vede ne compra e vendo su fa pellet. Vine una la so vendendo 280 euro. Farinova. Articoli per la casa. Attenti la prossima, attenti è però. E non l'avevamo noi. A noi la so fa pellet si interessa. Già l'abbiamo, la parte la Baricciani e Buru, che è tranquilla ancora, Barinuba, così che anche interessa, se questa così, 280, no, è nuova, causa fallimento, Buru di dubbi e vendenti, causa fallimento. Bisogna anche vedere com'è, a chi interessa. Però a me non mi interessa. Penso che nemmeno a te. E a qualcuno va a interessare, se la va a pigliare. Perché se quando stufa che magari conviene. Bisogna anche vedere il tipo della stufa. Capito? E per cui... Catta, per so poco macchine di stufa va, di tutti i marini in latino, di tutti. Ma a casa, per forza, la foga di stufa da pelle, sta catta. E da voi avrà la fine, come se aveva tutti i lati stufi. Mi venne pure una precisa la doia, se cos'è il tuo ero la so vendere. Rettangolare come quella tua, poi ce n'è un'altra usata, però bisogna comprare un coso d'aspirazione per Cristo, 100 euro, poi la prima che ti ho detto 280 è uguale a quella che ho io, quasi uguale, là, l'ugurore è precisa. Bisogna anche avere tipo, bisogna che ci sto. Chi sa pure il laviere solo, capito, grazie, visto che si mette chi sono in ghisa, dretto e anche pura in certe parti, magari rivestito in laviera, capito, però fai un po' di ghisa, da me, gatta, tre persone figuriami, ti puoi immaginare, tre persone a famiglia, gatta, appena poco. Tutto ghisa è. E la mia c'è la piastra di ghisa. Abbiamo visto pure due walkie-talkie della Motorola, 50 euro. E gare ghisa. Alcuni interessa. Alcuni può interessare. Ah beh, non bisogna più niente, cosa bisogna? Bisogna un po' di salute e basta. Ah, a me già non mi si fa. Persona Luca! Luca! Sì, sta arrivando. Dici che stanno cercando gente al lavoro. Stiamo assumendo all'Agipi, personale urgente, opportunità Italia, i tempi a tempo pieno. Non ho capito, stanno cercando gente? Avanti, Rudorradi. Posti di lavoro vaganti. Vieni e lavora con noi, personale urgente. Abbiamo contratto per immediato contattare per favore. L'Agipi stiamo assumendo. Poi opportunità Italia a tempo pieno. Ma non ho capito di cosa si tratta, non ho capito, La ditta è l'Agipi, l'Agipi della benzina, l'Agipi. Oh, posti di lavoro avanti, personale urgente, grandi lavori, a tempo pieno. Stiamo assumendo all'Agipi, posto di lavoro mancanti, personale urgente, opportunità Italia, a tempo pieno, capito? Poi v'è scritto RS 1008. Scontro in continente. E cosa ti napputi? Poi v'è pure scritto Simplai. Posto di lavoro, ma prese, sarà lì lo stipendio. Sì, vabbè, ma... Scherzando. Si chiama, non so se questa è la ditta che ha messo l'inserzione, però questa è quello che mette le inserzioni del vecchio. Una è l'Agipi e l'altra è la Simplai, che è sempre materiale plastico, lavora. La Simplai, Ho capito, e vabbè, grazie. Non è che, da oggi al domani posso andare in Chitano. Vieni, vieni al lavoro con noi, per Cristo sotto, alla Simplai. Mandami il link su Messenger, che me lo leggo io. Aspetta, se c'è dietro te lo mando, se c'è dietro, aspetta. Arrivato sì. Già ti arriva adesso, me l'ha fatto mia figlia, adesso ti arrivo. E beh? No, mi è arrivato ancora. Se ce l'ho qua io. Aspetta, lo rimando. No. Devo mandare da qua. Sì. Luna, ti è arrivato? No, non è arrivato niente. Aspetta, vedere, sì. Allora. Adesso sì. E qua segna che ti è arrivata adesso. Ma mi devi condividere il link, non le foto. E tu allargalo, no, e lo lì. Ah, io vedo solo le foto, personale urgente, grandi lavori a tempo pieno, basta, 1500. Vai scritto così, non vai scritto altro. Sotto c'è mostra tutto, ci guardo lì. Comunque vedo solo le foto e basta. Non c'è da altro, è così. Non lo so poi come fai a cercare, basta guardare su internet, boh, penso. Capito, mia? Grazialo. Ciao, Bacchi, e beh, cosa facendo sì? Ciao, grazie, buonasera. Eia, sempre facendo. Ehi, adesso hai finito, la campagna adesso si sale. Da poco fa sono salito, capito? Adesso al buio non si può fare niente, no? Dalle 5 e mezza non si vede più, il buio. La TV, Tore, non si è sentito, boh? Tore, ce l'ha mangiato il gatto. Bella battaglia, beh. Chi è? Avanti. Vittorio, buonasera. Buonasera anche a te, Vittorio, viene scucciato. Ciao Bacchi. Ciao Luca, buona serata. Oggi sono a casa di un ospite, Bacchi. Ho capito, allontana il micro. Ma è che tu non mi sei, sono a casa di un ospite. Sono un baracchino soldo io. Capito, grazie a diglielo tu che c'è il baracchino sordo. Ha detto che c'è il baracchino sordo, Vittù. Ho portato la Luca, bisogna che lo porti a fargli fare l'operazione. A mettergli un apparecchio acustico. E allora, è diventato il sordo. E io già venire a prendere in campagna. No, grazie a Cinnapuzzi. Vento, vento, vento. È freddo. Il vento è ghiacciato, di un borro nord, quel vento della Siberia. Ehi, a vento siberiano, Poi, per andar bene, per fare 13, si è bruciata la scheda della stufa. Della? Della stufa pelle, si è bruciata la scheda. Pizza, anche a me mi era capitato. Mi ha rigata, ma forse un minuto a ciamballa, una bucata, una vece si è infilata una nuva. 160 euro. Quanto? Cosa hai detto? Te l'ho fatta pagare. Io l'avevo pagata a 160, mi sembra un 5 anni fa. Graziano. Dimmi. E se male questo è un 1, 2, 3, 4. Un po' rauca mi sembra la voce. Il microfonino suo, dai, facciamo della vittoria. Ma già se da lontano ti sento più bene, non te lo mettere vicino. Guarda un po', è distante adesso. Riprova. Guarda un po', 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. A me mi pare ti intendo voi. Sta andando bene, già sta andando bene Luca, chiara, limpida. Agito, dai, che ti cosa sei fatto? Dimmi, Vito, dimmi. Agito, cosa sei fatto? Parla dal baracchino, cosa vuoi sapere? Nuda. Sei nuda? Entro subito. Ehi, Agarzea, vai pure. Siamo in Italia. Dove sei? Salesiane, Vito. A casa di Luca, sì, ho capito. Pensavo di essere Salesiani perché il segnale è quello lì. Mi compreso, ti ho detto, il segnale è quello che arrivi da Salesiani, che fanno scala. Benissimo. Non è strano, sono a pochi metri, non ti devo sentire bene. Allontana il microfono dalla bocca, non mangiartelo. Adesso sei tu. Quando te lo allontani si sente meglio, quando è vicino esce satura. Hai compreso? Luca, dov'è? Nascosto è? Controllando sta. Lascialo lavorare allora. Cos'è? Eia. Si è andato a mettere una firma, l'hanno chiamato a mettere una firma, a firmare una cambiale. Adesso che lo sta firmando al ritorno. Capito? Oia. Vediamo un po'. Luca, Luca! E beh, lui! Sì, e senti cosa, grazie al consulente di pollo. Al pollo sta facendo. Eia. Ma pollo con le ali. No, vedi tu. Perché c'è il pollo senza alibi. Ah, ma sai, vedi. Ah, grazie. E beh, Luca, è la stufa, guardata là, il problema risolto. Allora, la stufa metta a tre, capito? E non è affatto così quel problema. Sicuramente quel pellet non si riannuda, ed vabbè, è uguale a quello di ieri, Però sta andando bene la sua stufa, non ha fatto tutto quel casotto, vediamo, aspetta. Mi sa di sì, torna, io. Sì, grazie. Il fenidorra, vabbè, di meno comunque, dai. Non lo so. Pulisci la più bene, cosa vuoi dire? No, io l'ho finito quel pellette là, sto mettendo quello che ho preso all'Eurospi ed è pulita va, la zuppa dentro, e lo sta bruciando bene. E il vetro è pulito. Abete, solo abete. E beh, ma chi? Caduto sì. Un mito solo. Dormi tutti. Io Gigi che fa freddo, Dov'è? Senza stufa e poco se casi me. Ma oggi ti si è bruciato quel film. Allora, è segnato pochi minuti fa il tecnico. La deve ordinare, arriva mercoledì. A me la voce me la regalo l'indomani, ma stesso. L'avvocato che dice un minuto va appunto, è in caccio. Però non lo so se si può aggiustare la scheda vecchia, infatti certo me la faccio che al limite la prova a controllare, invece non l'ho mai controllata, magari si può riparare. Darsi di sì, Podastino, non lo so. Adesso questo qui ne ha portato altre, però non andavano bene. Ci vuole la sua originale, la deve ordinare. No, io quando l'ho telefonato mi ha chiesto che modello era, che tipo di stufa era, gli ho detto il modello dal libretto, il numero della matricola, e poi me l'ha ordinato e l'indomani, dopo due dì dai nomi, da. Ordinava domani è giovedì, venerdì la spediscono, dice verso mercoledì dovremmo averla. E intanto fino a mercoledì rimane lo freddo. Bottichino che non venne, perché magari tu con quella scheda protetta mi sembra che c'è un tipo che vende pezzi di ricambi più avanti della piazzetta dove c'è quel napoletano, più avanti lì sulla destra c'è uno che vende pezzi di ricambio di stufe a pelle. Boh, non lo so. Questo è andato a Signori addirittura a prenderle. Dice c'è un negozio a Signori. È andato lì e non le hanno. Sono tutte diverse della stufa che ho io. Boh, perlomeno io sappia che viene da uno. O se no potevi chiedere anche da buoni frigidi. Adesso aspettiamo questo signore qua quando vengano. Agitemmo, capito? Piano piano. Sono fortunato a sto periodo. È un giro così di fortuna, non ho idea. Ehi, non sei solo. Io 4 anni fa avevo ordinato il braccialino a chi si è imbuffato e si è cremato. Il mese scorso l'ho dovuto ricomprare. 4 anni fa l'avevo comprato, perché c'ho la ricevuta dell'altro che avevo comprato. E l'avevo acquistato 4 anni fa. Avevo acquistato il portacenere e il vetro anche, mi si era affilato in un angolino. E avevo sostituito il vetro con la guarnizione e il portacenere. Infatti. Succede nelle miglior famiglie, e questo gennaio me l'ha detto, mi ha messo quasi per terra proprio, serranda, stufa, bolli, palle varie, tutti ai pindì. Ehi, uno schifo, e non lo sai che usci, per carità, ma io avevo dato la disfetta al telefono di casa, alla Timmy. Prima mi arrivi dall'ultima bulletta 53 euro, quando prima invece dovevo pagare 32 euro, 53 euro. Allora se mi arrivi dall'ultima bulletta 105 euro, perché mi hanno messo la tassa, la rimanenza del modem che era rimasta da pagare, perché mi mettevano un tanto ogni mese a pagare il modem. E devo pagare il bullettino 105 euro, quei bastardi. Le avevo dato la disetta perché da 30 euro mi c'era alzato a 53. Non senso così. Ti fanno pagare anche la virgola che mettono. Male, male. Sono tutti allo stesso livello, non se ne serve mancuno. Ma adesso c'ho la Vodafone nella linea fissa e lì sto pagando, pago 29 euro o 30 euro, una cosa del genere. per 2 anni, poi dovrei pagare 29 euro. Anche quello già è sicuro, ma la sorte. No, sono tutti allo stesso livello, graziati, è inutile cambiare sempre, perché tutti devono mangiare. Ehi, sì, chi sa pure farmi fare, ma se si cosa gli do quella di te se non me ne metto più fisso. A va provo. Vabbè, mi pagherò, lavora, non me la putti, però se andano e si impiccano e non ne pongo più, già avevamo i cellulari. Solo che io è comodo e lo metto, ce l'ho per quello, capi? È comodo, ma le comodità si pagano. Sono ben cari, molto care le comodità. E Vittorio, dove, che fine ha fatto? Vito! Bacchi, già sono qua, non ti preoccupare. Tutte le frittelle a Luca gliele sta mangiando, si sta abbuffando. A pagato si nata avevo la cruda di germelli, a chi ingrassa al minimo di 10 kg. E vai, paurato, grazie. Non mi dico mai, non aspetta, me ne mangiato. Se ti vengo dai roghi, è pizza, è fritti, è frittelle lunghe, e poi sei bevuto due bottiglioni di birra. 3-4 tazze di vino rosso. No, grazie, abbiamo bevuto solo il bitter. Ah, pure il bitter, mi bacchi, inteso. Ma va, Luca, non si può arricchare però me. Non posso fare l'odorone, se lo posso fare. No, chi si ama è diventato rotondo, gira tutto in tondo. Allora così. Capito. E Luca sempre controllando sta. Luca Girenni di subollo senza le gambe. No, sta controllando il pollo, lo si distribuisce. Li ha condito Luca Flipper, pollo. Ma grazie, cosa graziava? Vittorio è quello cosa, quello rosso in mano, pronto a condire la cosa al rosso, si distribuisce. E allora la porci io, avvicina la bocca di un forno con la massa da peso, così ne può caro un capo un bollo. Così è Vito. Vito, non è mangiare più, basta. Non risponde, no, grazie, non risponde più. E a bocca piena. E allora, le bene male a rispondere, va. Oppure appiccicando un bollo. Vediamo un po' se Luca risponde. Luca! Luca Pollo! Tore Squallo, a chi sei? Tore Squallo è passeggiando con Rogani. A qui tu, allora la bandiera, mi baria tu. In giro Ma no, io ti metto una minata, non puoi bene. Io vi vedi, basta al lago, basta, dalla parte di la cura, non marcia più. Ah, ti passa indietro il corso, lontano dallo caseggiato. Passa lì il luogo che si può vedere. Io vedo tutto illuminato, mi sono i lampioni. E bisogna stare attento, mi graziano, se si dimonta il lampione si può fare a casa sua. Non lo dia a buffoletti. Ci abbiamo buttato tutti i banchini. I banchini, avanti poi c'è i lampioni. A che torna non ha lampioni, ha l'uscio. E allora, basta protestare e li buoni i lampioni, li bucali dai no che la regali che dà. Allora, fate così proprio. E tutto le squaloga. Non ne potevo fare le case dell'ana. Tore Squalo, manco Marino stasera sentito, vedi che ti india, mi pare che su burro ti prendi lo freddo. Oh, Marino si entra allora che siamo sarrendi. Ma chi è, sai chi entra che sura? Chi devi serrare gli anni, fate la chiusura. A te un attimo. Sì, vai. Attento, Marino. Non si vede Marino. Tore Squalo, ci sei tu? Vito, vabbè, c'è il ciamaro. A te un attimo. Ma chi rientro subito. Hai pure quello che siamo in Italia. Grazie. Ehi, aspetta, che ha scritto, chiedi a Luca, come si chiamava quello che è venuto ieri sera per la serranda? Marchisio. Eccomi qua. Sì, ancora, ya. Sì, ya, sempre in Italia. Sì, voi. Chiedi a Luca come si chiama quel tipo che mi ha mandato ieri. Luca. Cos'è, Marchisio? Ripeti, cosa gli devo dire a Luca? Come si chiama quel tipo che mi ha mandato ieri? Federico Palloppoli. Federico? Eia. Bene, meda. Perché, Bacchi? Perché devo venire a guardare il coso, siccome io sera a tardi. Da fuori non funziona, funziona solo dall'interno e telecomando. Dall'interruttore sono fuori non funziona. Ah, ecco, vabbè, almeno ti mando un messaggio. Passava a vedere un po'. Non c'è passato, non mi ha chiamato, vuol dire non c'è passato. Ah, ci aspettiamo domani, se non arriva domani lo chiamo io. Aspetta che do un colpo di telefono, dai, tanto è il figlio di un amico, dai, aspetta. È allontanato. QTH piccolino. Ufficio, QTH piccolino. La garufa, Bacchi. Arriva, piano piano, tua corretta. Ci arriva Graziano. Ma se devi andare nel QTH piccolino, mi scappa la pipì. Lui scappava la pipì, doveva andare. Oh, Bacchisio. Mi? Altro che ti chiama lui, dai. Comunque dice che non è una cosa urgente. Ma comunque sia, gli ho detto, vabbè, fatti un salto, glielo sistemi e buonanotte. Ti chiama lui, forse domani si fa un salto, dai. Non è che ci abbia così di fretta, solo che se manca la corrente, se non funziona il telecomando non puoi salire, rimani fuori. Va bene, Luca, grazie. Ci sentiamo domani ancora. Yeah, tranquillo, non ci sono problemi. Perché lì dovevi piazzare anche la manovella a mano, se manca la corrente lo sblocco e l'alzi a mano come la tenda solare. Ehi, Graziano, hai ragione anche tu. No, se invece manca la corrente, chiamo un po' di vagabondi e la faccio portare su. Ma così è un bel pesante e non ve la fa. Dovevi metterci già incluso quella specie di argano, una specie di argano. C'è una secca, l'agganci, chi gliela porti su? Lo faccio con la batteria invece io adesso. Ci metto la batteria, Grazia. Non lo so però se la batteria ce la fa a fare girare il motore di 220. E la fa, ci metti un inverter da 12 volt, te la porto da 220. E allora potresti fare anche così con la batteria della macchina. Puoi fare anche così. Perché in genere secondo che zona era quei motori c'era abbinato anche l'argano in caso mancasse la luce, capito? Levavi lo sblocco, tiravi la manovella a mano e la portavi su. Perché questa c'è la pressione, c'è lo sblocco, mettiti di buona volontà e porta la sua a mano. Anche così già si buffa. Sono belle le comunità, però molte volte quando manca la corrente si butti giù, è come la zuppa a pelle, se manca la corrente non funziona più, si è chiusa. Manca la corrente due volte e sei buttito, a che si brucia la scheda d'orla? Infatti l'altro giorno qua è mancata e io ne l'ho staccata, poi quando è tornata la chiusura da attaccare. Infatti l'altro giorno è arrivata la corrente due volte mancata e due volte ha bruciato la scheda e si è mogliato un 4-5 di senza la stufa. E allora dovresti andare a informarti all'Enel, per colpa di loro ti hanno bruciato la stufa perché non hanno messo nessun avviso sul giornale e la stufa cammina a baga, a me, a basso. Sì, lo padrone si abbaga, si può capire, se no la lascia sudata. Capito? E cosa vuoi farci? Sono cose che succedono. Quello sì, io mi ricordo tantissimi anni fa, al latte dolce, era mancata la di la Ruzzi, due o tre volte, ha bruciato un po' di televisori, frigoriferi, pozzetti, la gente di tutta questa zona, della zona di Gian Maria mi pare dire. Si erano indennizzati e li hanno rimborsati, l'Enel, che era con l'Enel. Questi sono sbalzi di tensione, perché quando manca la tensione, poi quando arriva uno sbalzo di tensione ti brucia l'apparato che hai inserito, il televisore, il frigorifero e tutto quanto. È quello che succede. Eia, eia, già lo so. Così le apparecchiature elettriche saranno incomodi, però vi devi stare ben attenti. Tipo lo scaldabagno elettrico che ho io. Adesso è tutto elettronico. C'è un interruttore, lo scaldabagno, se manca la luce devi chiudargli su, poi vado fuori nella veranda e stacco l'interruttore dalla 2P. Poi quando torna la corrente, attendo torna l'interruttore di fuori, che c'ho fuori nella veranda, e poi accendo l'interruttore dello scaldabagno, che è attaccato allo scaldabagno. Capito? Perché è elettronico. Ah, ecco, ce l'hai elettronico, no, io ce l'ho manuale, normale, però quando manca la corrente lo stacchiamo lo stesso perché c'è l'interruttore. Sotto ci ho piazzato l'interruttore, lo stacchi e la corrente non ne arriva. No, io l'interruttore l'ho messo nella veranda, è collegato, ho messo il pazzo a capo. Interruttori non ne ho in bagno, non ce ne vuole in bagno interruttore nello scaldabagno. Ho messo il pazzo a capo. No, ce l'ho sotto l'interruttore, vicino alle prese che sono in bagno, a fianco c'è l'interruttore dello scaldabagno. Quando spegni, capito? È un bipolare. Lo stacchiamo da lì per non fare fare danno. Un fulmine, una mala sorte, te lo può anche bruciare. Ehi, già c'è salvavita io, o anche, dunque, già salta il salvavita. Non salta il salvavita, ma è sempre no che salta. Certe volte non salta niente il salvavita. No che già salta. L'altra volta c'è scesa un po' di acqua nella giabatta, dove stava pulendo mia moglie, dove l'albero è Natale. E mi brincava subito lo salvavita. Non sappia così, l'ho controllato tutto, vado vicino all'albero ed era la giabatta bagnata, perché c'era una pianta lì vicino, come la piazza, si è rovesciata e si è uscita un po' così, è nata la giabatta. Infatti, no. E questo quando vuole lui scatta, quando vuole lui non scatta. Quando la sta a capo funziona. Se c'è un corto salta, oppure un fulmine, rimane al buio. Poi inserisce e si torna cavato. Anche quello. E cosa vuoi fare? Se le cose non si rovinano, non se ne riparano, i tecnici non guadagnano. E così è. Vabbè, una cosa è andata di passaggio a su faccia. Ho visto. È così. Ma non c'è nessuno stasera in radio, no? Torre Squalo non si intendi, Marino non si intendi, Gian Maria non si intendi, tutti a dormire. Il Torre ne va a sentare a fare un bel. È un periodo un po' critico. O c'è la radio che non funziona, e se si è senza radio. Ah, evidentemente sta facendo cosa. Mi dà la tua pelle usata, 100 euro la stanno vendendo. Bacchi. La tua pelle di quanto? Usata, 100 euro. Ed è a Sassari. Che carraggio sarà? Lì c'è un carraggio nella stufa, 100 euro. c'è scritto la stufa accende, bisogna solo cambiare l'aspiratore fumi che si trova nuovo a 130-140 euro. Se tu vuoi da Ede ti viene a costare 2,40 cambiando quel pezzo. Se poi da quel pezzo ne arriva un altro pezzo, come a comprare la stufa nuova? Ma e da poi si vede la stufa mi pare tutta brutta male, sta la cornice dove c'è il vetro o è bruciato tutto sverniciato, qui sopra mi pare un po' rugginuccia, ma sarà mondezza. Chissà, devi pagare un padrone per portare sera, no dalla Edore di Nanno, Edore devi dare che tocchi la buia. E poi c'è un negozio che sta vendendo i tubi in acciaio, c'è stata attività vendita di tubi eccetera per stufe, cammini a pelleti e legna eccetera eccetera, dove si trova a Sassari. A Sassari? Dove stai guardando? Su internet? Compra e vendo a Sassari e su Facebook sopra c'è un disegno, schiaccio quello esce, compra e vende, esce tutta la roba e c'è in vendita di Sassari, di Bora, di Ribaesi, di tutta la Sardegna, va? Questa è a Sassari. Ho capito, poi ci guardo a vedere un po'. C'è una casetta disegnata qui nel telefono, dove c'è la campanella a fianco. Schiaccio quella esce, tutta la roba che c'è in vendita. Lì c'è un condizionatore, cosa è? Ah, un'asciugatrice indesi, 7 kg, 180 euro, nuova nuova, lavatrici, porte, pareti, motoseghe, fari alogeno, un sacco di roba, c'è macchine di caffè, cubaccioni, case pure, macchine vendono. C'è di tutto, va. C'è di tutto, dici tu. E che c'è la batteria, mezzo scarica, però dire quasi. C'è una stufa a legno come quella che avevo venduto io, ma che a fianco era mia, è la nuova nuova. 250 euro, uguale identica, tutta in ghisa, però è a legna. Se l'avevo in campagna l'avevo venduta, chissà se avevo fatto un camminetto. Sì, ma la legna, grazie, bisogna portare la legna, sporca la casa, il motore di patrici. Invece quel sistema lì, il sacchetto, pulito. La campagna andava una legna, a chi se ne arrivare va a Bauzzi. Giusto, non solo va a Bauzzi, il giusto, sono tarrancoli, di Genova. No, prendi il sacchetto, non sporca niente, è miuti, tranquillo e beato. E poi la legna penso che costi più del pellet. E poi secondo i cagatti di Buttiburu, con la legna è l'obeso, ma tutto un magna magna, non l'hai vista, se c'è la notizia. Chi ti ha pizzicato un sacco di volte, truffando la gente. L'ultima volta dice, non so quanti quintalieri, era un conto basia, 600 e più. L'ha detto, se di voi 300, se di biglietti in Nantes, se non portate la legna. Adesso ci rappigliate di 300 e se ne è andato. Però devi caricare la legna, torna, è più travaglio. No, a primo impatto se la stava caricando, poi ha visto che non riconvini assai, a parte quello, perché poi in realtà in fondo non c'erano tutti quei quintali che aveva detto lui, lei lo stava fregando. Allora io gli ho fatto la proposta, ti do 300 euro e ti innanzi subito davanti a me, se no ti carichi di tutto e sta qui. Ha accettato le 300 euro, non hai capito? Il suo valore reale. Ehi, ma sai cos'è? si abbocca a bocca uno loro, gli fanno la battuta, se quel fesso che si abbocca e devi guadagnare, invece se c'è paghi due dritti, se no, io che lo vedo, se vuoi è tolto, se no portati via tutto. Ehi, a chi se l'abbiamo bruciato un sacco di voci, di quanti la diffida che c'è la notizia, non le è andata a me. Bisogna essere così. Bisogna fare così, a farli rispettare. Se sono due quintali, te ne pago un quintale. Se sono cinque quintali, te ne pago cinque. No, sono due e ne vuoi zinco, lo saranno. A pura carriera. E infatti quel tipo che ci striscia là, l'ha perseguito dappertutto. A chi ha puttito tutta questa zona, l'ha tutti puttiti. L'America aveva avuto i figli. Ha avuto l'America a fregare, fregare. Oia. E andava. Vediamo se c'è Marino. Marino, ci sei? Marino non si intende. Marino. Ma se no se ne avevamo fra una decina di minuti Marino è in radio. Tore sarà ancora a prendere la signora, Tore? Eia! La putti di una piazza adesso! La zona l'ha bruciato. Avanti che mi non putti più a nessuno. Era Gonado? Gli ha bruciato la piazza, no? Adesso lo sanno tutti in quella zona lì. E dunque, non li putti più. La voce si espande e dunque non ho venuto che fa. Da uno passa all'altro e dopo lo passa, sarà 3 anni. Mi legna di quercia 90 euro ma a quintale 90 euro che legno è? O di oro? Legna di quercia aveva scritto pubblicazione 2 giorni fa una montagna di legna e c'è vedete Austi Sardegna è un capolone quella è buona. E lì c'è pesante però, venite poco di un quintale, eh? Per una montagna di legna era un briccio, euro 90, sarà 90 al quintale, non penso. Boh, 90 tutto quanto non saranno. 90 centesimi al quintale. No, c'è 9 e 0, c'è euro, 9 e 0, e buh. Non dico 90 centesimi a chilo, lo sa, a quintale. 90 euro al quintale, mia moglie sta dicendo. 90 euro al quintale, così. Certo, mi fai pure oggi d'arriva a 8 euro. 8 euro, un litro d'uso. E io bisogna fare uso per attirare, per vendirlo. Però qui c'è un impegno lì. Salgigna e vendendo uso da riva. Oh, io ce l'ho ancora quello dell'anno scorso di campagna. Quest'anno non ne abbiamo raccolto. Tanto vieni la bocca e la blubunta. Ehi, avete io sto facendo qualcosa. E no, quest'anno era punta tutta canta. Non ci ho fatto 4 quintali e mezzo, una cosa del genere. Ma l'olio ne ho dell'anno scorso ancora. Il nuovo non l'ho toccato per niente. Anche io ce l'ho ancora. Anche da noi la punta e dunque chissà in vera non ne l'avevamo nemmeno a cuccia. Già se la rimani a dare bisogno e ne farà da in terra. Quando è un bel punta poi ci maro burulucci. Ehi, avanti Vito dimmi. Lo chiami che questi ne si cua. Oh malazzo che c'è. Come intieni il cubitorio? Bisogna rimpastarlo e farla nuovo. Luca, cambia qualche resistenza, qualche resistenza bruciata il cubitorio. Non fa vita. No, sai cos'è graziato? Vicino di campagna. Ci sono ancora le olive sull'albero, sono ancora verdi. Ah, sai i trunetti che vi so? Fatti tutta... Caduto c'è, Bacchi. Sai graziato? No, mi sembrava che eri caduto. Ehi, boh, Vittorio, prima si ha mangiato i frittelli. La birra, passa, se la mangia in rubollo con Luca. No, Luca l'ha lasciato rossi di rubollo, ha detto. Lei non risponde se è rustichente. Vittu, non ti rispondi, no, sono mangenti. Rustichenti, rustichenti rossi. I due cucinati di rubollo, e chi ti mangenti? Uno cucina e l'altro mangia, grazie. Beh, prosciutto crudo San Daniele accompagnato con i grissini, buono buono, bello, e a fittene magnini, buonissimo, vino rosso, olive verdi, oh yeah, beh, tipo West ad alta penetrazione, buono buono. Profumi floreali. Puro coreano, so. E salta noi. Profumi floreali, lo profumo, vedi. Yeah, lo profumo coreano, e salta, non viene il profumo. Non ne fate i profumi, e salta, e salta. No, coreano, floreali. Ah, floreale, io gioco su coreano, e allora la differenza. Cialustra, me, frittelle, buone, buone. Quelle col buco. Se non c'è il buco glielo facciamo, grazie. Eia, eia, Vittu. Grazie, dimmi. Le frittelle con il buco erano. Erano buoni. No, ma c'era il buco. Buone, buone. E Luca cosa sta girando sempre quel pollo? Cosa grazie? Luca sempre il pollo sta girando. E adesso lo fa controllare, ha detto. Guarda se ha fatto l'uovo anche. E a chi devo controllare se ha fatto l'uovo? C'è il pollo. E adesso qui. Va, le girende. E le patate a ciccio. No, non la giudici. Ah, c'è sta patata. Rosmarino, messogliela. Grazie, dimmi. E le patate non le hai messe con il pollo? No, oh, con gli olive lo sto facendo, olive da confetto. Buono, buono. Adesso ti mando una foto, aspettami, su Messenger. Aspetta, allora, Luca, ecco. Guarda che te l'ho mandata, falla vedere a Vittorio, a ver se ce ne intende di quello. Sì, a non mettere in malizia Vittorio. Luca, arrivatoci. Eia. E fallo vedere a Vittorio, a ver se c'è questa cosa è. Ma chi io ci sei? Già sono in Italia, avanti. No, non cado perché sei seduto per terra. Oh, così è. Eia, io mi poso in terra, insomma, se mi do cuvuta. No, mi metto sulla sedia, tutti mi mettono sulla sedia, c'è il ragazzo. Io in terra, cosa sei, dici, a qua a terra. Ti piace quello. E guarda Luca, allora. Eia. E bei. No, nulla, continua a aprirmi il coso, senza legato non disponibile. E beh, Bacchi, cosa si vede? Vai dentro la televisione, grazie. Ma vai dentro la televisione, cosa fai? Nulla. Non si può fare nulla. Quando fate c'è tempo vero, non mi piace nulla a me. Ah va, mi fate venire un sonno e mi trovo posato la catria. Che brutto che è l'inferno, per carità. Vabbè, non ti dà la vannuta. Boh. Oh, beh, freddo, vento. Oh, quasi buggio subito. Boh. Freddo, oggi c'è già fatto freddo, in campagna aveva freddo. Rente la serra era un forro. Ma tanto c'è di avere rente la serra, un forro era. Però quando ne sciafura, colpo di grazia. Perché se entri nella serra ti devi in maglietta, però prima di sci ti devi gubbaccare, se no ti grebba così. Già lo so che funziona così la serra, che c'ho un amico io a Canica che c'ha le serre e ci andavo molte volte. E un meccanico, fa il meccanico questo, e c'ha le serre grandi, pianta il tutto, poi la porta al mercato. Oh, quello che pianta. E già lo so. Sì, infatti, c'è caldo. No, le mie sono piccole, 200 metri quadri. No, quelle di questo amico mio, di un abisso di serra, sono enormi. E le tiene conto la moglie, perché lui, anche lui, quando non c'ha macchine o camion da riparare, nell'officina che c'ha lì stesso, già lavora anche lui in quelle serre, anche i figli lavorano in quelle serre. A me mi moriva, ma l'ho visto come è andato, a lavorare lì nella serra. Oh, lagami un capo, l'ha giusto. In la serra si sta bene, ma si sta male, capito? Da una parte c'è caldo, è alta 4 metri, noi si abbassano, è 4 metri alta, 10 metri di larghezza e 20 metri di lunghezza ognuna. E adesso non te lo so dire quelle, però sono quelle serre grandi grandi, sono gigantesche, enormi, e lì tutta la cosa che fa crescere lì, le more, un sacco di roba, la porta al mercato all'ingrosso, al mercato all'ingrosso qua a Sassari, a Oristano, a Nuaro, a Cagliari, dappertutto. Eh sì, se vuoi vivere, quello per lui è un mestiere, è, diciamo così, una fonte di redditizia. Se non sono in cassa lo vende nudo, è puro, è così. Deve girare, girare, girare. Se la voglio lasciare la porterà da un'altra parte, però venderla deve vendere, se poi la deve buttare. Beh, infatti, quello è tutto testata la moglie, perché lui fa del meccanico, c'ha l'officina. Laggiù da Bulueto, ma è tu, non c'entra niente, tutto la moglie ha fatto, capito? Chi è interessata lì è tutta la moglie. I figli, la figlia ci lavora e a me mi moriva chi mi andava a travagliare, ma ho visto che andava due. Oh, chi mi ti faccia a travagliare 24 su 24, intanto noemmi. Se legnavelli nulla. Venne che fa, c'è da fare tantissimo. L'erba si sviluppa prima della pianta che metti. Devi stare sempre burendo, sempre trascendere, sempre mirigendi, fa. In serra bisogna lavorare così, se no non fai nulla. Già lo so, infatti da Romanzana Vasile era sempre presente in serra, sempre travagliati. La moglie con i figli, la capisci, no. Sempre lì di sabato, di domenica, di vecchia. Sempre bisogna lavorare dentro, massimo in estate, in primavera estate c'è da innaffiare, da raccogliere, da fare, e ogni giorno c'è da fare, una cosa diversa dall'altra, ogni adì, se vuoi vivere, se vuoi raccogliere, se non vuoi raccogliere lascia stare tutto così e buonanotte al secchio. Infatti a me mi uriachi da voi, gli facevo anche le consegne, no? Capito? Con il camion che c'ha, ha detto no, la capisci, no, è per me sul travaglio. Che bello, grazie, ti passi l'ora, neanche te ne accorgi dentro la serra, c'è al calduccio, in estate si tratta un poco più male, c'è caldo, sudi e dimagrisci. Anche, diciamo così, una cura dimagrante. Ma io, a me è sempre piaciuto lavorare all'aperto, in giro, o libero, o come un uccellino, sempre a zonzo, in giro, all'aria aperta. E a me mi è sempre piaciuto lavorare così, anche se mi facevo il matto, però a me mi piaceva lavorare sempre così, in giro, all'aria aperta, o a girare dappertutto, tra Valenni e Girenni. E infatti conoscevo un sacco di gente quando giravo. Graziano, dimmi. Io cosa mi fai da mangiare per stanotte? No, stanotte non mi posso nulla, mi mangio nulla e mi posso. Ho fatto pasta e fagioli a pranzo, poi ho fatto i peperoni, il prezzemolo, il tegame, e poi c'era rimasto dal polpettone da ieri notte, e con le patate, e niente. Cacio, salsiccia, basta, già non mi ne manca di mangiare, però oggi ce n'ho oltre. Ho capito. Allora niente, stavolta digiuno per me. E poi dai mangiato la pizza, dai mangiato i frigori, la faccia di mangiare ancora. Allora, io c'ho sempre fame. Un poco di cavolafiore, dalle grazie. Cosa, Bacchi? Sono di cavolafiori. No, cosa mi rimane sullo stomaco quello? La sera hanno fatto un cavolafiore, Canotti. Cavolafuori. Cavolafuori. Non ho sentito, Luca, stavo rispondendo al telefono che ha squillato. Sì, ho detto che io c'ho sempre fame, capito? Vabbè, se mi invitano, io mangio. Allora c'è il verme solitario, vero Bacchi? Sì, a quando riempire quella pancia da il coso, da Luca. È alto, grosso, Luca vieni voi di roba, grazie. Ha ragione, poi è giovane, deve mangiare. Ah, non ho capito niente, che ha trovato a squillare un telefono. Boh, un centralino. Brun di chi parla? No, mesuretta, l'ho data a Paoletta. Beh ragazzi, io chiudo là, ce la risentiamo domani se coincide. Ciao Vittorio, ciao Luca, ciao Bacchisio, ciao chi è in ascolto, e niente, riprendi lui. Ciao grazie, anch'io chiudo che mi offro anche la doccia e tutto quanto, controllare la cena. Un po' di impegni, dai, ciao Bacchisi, anche a te, buona cena, buon tutto, ciao a tutti, ciao, riprendi Bacchisi. Anch'io devo andare, ciao Graziano, ciao anche a Vittorio e a Luca, buonasera a tutte e tre, anch'io passo in QRT, causa merendero, ok, ciao ancora anche agli ascoltoni. Ciao Bacchisi, ciao Graziano, buona serata. Bacchi. Sì, è sopra il popolamento. Ciao Graziano, ciao, buonanotte. A domani. Ehi, ciao. Avete vicino qualcosa, grazie. A Vittorio è invitato. Dove? Vittorio se ne va a casa sua adesso, cosa ha Vittorio invitato. E va, un rientro va. Ah, gli dà per la zappa al pollo, per il viaggio. Che sta cagando un guzzaggio a sto bollo, va? È ancora in cottura. Mi capita, ma non sarà di gomma, oh. Non è finto. Va bene là, ciao, vedi la caro cucina bene, ciao, arrosolalo. Oggi ho mangiato, ho capito, oggi ho mangiato bacianotti, mi sa, babbo, mangerò frutta, ciao. Ehi, ciao.